L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e ben ritrovati all'Altra Europa, come ogni sabato il nostro appuntamento per raccontare l'attualità europea attraverso le storie, attraverso le persone, attraverso i protagonisti. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, questa unione di tante voci europee appunto per raccontare e costruire insieme quella che è l'unione. Ci trovate sulle nostre coordinate internet, e quindi sia la pagina Facebook sia la pagina Twitter di Euronet Plus e dell'Altra Europa, e anche i miei account personali, chiocciola Federico Taddia. Ogni settimana un viaggio, e oggi partiamo da una lettera pubblicata in Spagna. È una lettera, d'addio quella che ha pubblicato il quotidiano spagnolo Público, la lettera d'addio scritta a una ragazza di 25 anni, una lettera che ha indirizzato a Rajoy in così rappresentanza di tutta la classe politica. Anche sui quotidiani italiani abbiamo spesso letto di queste lettere, questi sfoghi, queste testimonianze di giovani costretti a volte ad andarsene, costretti a volte a dover scegliere un lavoro che non rispetta e rispecchia soprattutto i propri sogni. Lettere che vanno a denunciare proprio questo: non c'è la possibilità di sognare, non c'è la possibilità di realizzarsi. Lei si chiama Laura Cruz, è una giovane giornalista spagnola disoccupata, laureata in giornalismo, fotografa, ha fatto l'Erasmus in Italia e quindi parla bene la nostra lingua. Ed è qua con noi. Ciao Laura, buon sabato. Buona mattina a tutti. Ciao. La tua lettera, che è nata credo come sfogo, poi ci racconterai qual è stata appunto la forza che ti ha spinto a scriverla, è stata ripresa dal quotidiano Público, e questo ha scatenato sia in rete, su internet, ma non solo, tante risposte, tante testimonianze. Perché hai scritto questa lettera di addio al tuo paese? Sì, il principale motivo di scrivere questa lettera è il giorno in cui sono arrivata a casa e ho saputo che non potevo avere un'altra volta la copertura sanitaria gratuita. Uh-huh. Fino a qualche mese. E allora ho pianto molto, come si può leggere nella propria lettera. Per questo ho deciso di fare qualcosa, non sapevo cosa fare, perché anche io partecipo attivamente nella politica spagnola, perché formo parte di un'associazione di studenti. Sì. E facciamo tante cose, e ho deciso di fare questa cosa. Prima avevamo fatto un video per denunciare tutti questi tagli pure. Mm-hmm. E infatti, perché tu ti sei accorta che appunto compiendo 26 anni e non avendo un lavoro fisso non avresti più avuto l'assistenza sanitaria gratuita, quindi questa cosa è stato uno schiaffo, ti ha quasi risvegliata, hai capito che il tuo futuro non era quello che ti eri immaginata, ma soprattutto alcuni diritti fondamentali come quello della salute era fortemente a rischio. Quindi hai scritto questa lettera, hai scelto Rajoy come simbolo dei politici spagnoli. Infatti, perché lui è il presidente del governo, ma penso che sia chiaro nella lettera che non è un fatto soltanto di questo presidente, che questa situazione viene da tanto tempo, di altri presidenti che hanno fatto più o meno le stesse politiche economiche, almeno che hanno desembocato in una situazione caotica per i giovani spagnoli. Certo. Quale sarà il tuo futuro ora? Quali scelte hai fatto? Adesso appena sto finendo con i miei studi di fotografia e poi ancora non lo so, ma penso che me ne andrò, come si dice nella lettera, ma non ho deciso ancora dove, penso che sia forse a Centro Europa, ma anche l'anno scorso sono stata l'estate a Bolivia, in Sud America, con una borsa dell'università, e forse anche mi piacerebbe andare di là, mm-hmm. perché ho visto che ci sono tante opportunità di lavoro lì, certo. in Sud America. Laura, tu hai fatto l'Erasmus, quindi tu hai vissuto l'esperienza del passare un periodo di tempo all'estero. La grossa differenza è che ti senti costretta all'esilio in questo momento. Sì, infatti, perché prima lo vedevo come un'opportunità e anche sarà così un'opportunità, però adesso non mi fanno, non posso fare la scelta tra andare e rimanere qua. Scusami per il mio italiano perché sono un po' nervosa e allora non parlo molto bene. Adesso non ti... lasciano decidere cosa fare, se no tu devi cercare il futuro, ma tutti lo fanno all'estero, tutti i miei amici, come si dice nella lettera, se ne sono andati e questo mi arrabbia molto, veramente. Un'altra birra.wordpress.com è il blog, sì, oppure infatti. Il sito pubblico.es se volete leggere la lettera scritta da Laura. Laura, questa lettera ha scatenato tante altre testimonianze, come tu hai appena detto, tanti tuoi amici stanno facendo la tua stessa scelta. Cosa manca in Spagna per rimanere lì? Manca solo il lavoro o manca altro? Manca una visione, manca una forza, manca una volontà? Adesso, come forse saprai, questo governo sta involto in un scandalo di corruzione esagerato. Adesso hanno anche ci sono anche altri problemi, come principalmente i tagli che fanno nella sanità e anche l'educazione pubblica, che si sta infravalorando. Sì. Invece la gente anche deve soffrire che la banca sia molto, non so come dire, che gli fanno tanti abusi nella banca, come che devono lasciare la sua casa se non possono pagare ovviamente l'ipoteca, certo. perché non lo possono pagare perché non hanno lavoro, e quindi allora è una situazione ciclica che si mai si risolve. Uh-huh. Scrivi anche nella lettera, insomma, che hai fatto questo corso di tedesco, su sette persone che lo frequentavano, quattro lo stanno facendo per poi andare a cercare lavoro in Germania. È la Germania la salvezza, è quella la meta, e soprattutto per te o per voi, cosa rappresenta oggi l'Europa? Rimane comunque un sogno, rimane un'opportunità o è un qualcosa di aleatorio, un qualcosa di lontano? No, a me piacerebbe rimanere in Europa perché ci sono paesi che sono più o meno simili al mio paese, che mi piace tanto, per esempio l'Italia, no? Uh-huh. Però è anche perché non è così lontano per tornare a visitare la tua famiglia. Certo. Ma penso che sia un problema di tutta l'Europa, almeno del sud dell'Europa, perché sappiamo che il nord dell'Europa è diverso. Ma sto studiando il tedesco perché penso che sia meglio imparare altre lingue per cercare un'opportunità in qualsiasi paese. Mm-hmm. Laura, grazie davvero per la tua testimonianza, in bocca grazie al lupo a te e a tutta la tua generazione, perché deve essere veramente un messaggio globale questo. Ciao e buon sabato. Ciao. Un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Idee per cambiare l'Europa? Dite la vostra. Avete idee o proposte su cosa cambiare e come migliorare il modo di lavorare e fare impresa in Europa? Oppure volete dire la vostra sui diritti dei cittadini, sul welfare e il mercato unico? O invece vi interessa portare l'attenzione su nuovi sistemi e misure per tutelare i depositi bancari dei cittadini, i commerci online e la privacy? Su tutti questi temi la Commissione europea vuole sentire la vostra e per questo, a partire dal 23 settembre, ha deciso di aprire il Mese del Mercato Unico, un'iniziativa promossa per stimolare il dialogo tra i cittadini e raccogliere le loro idee attraverso 4 forum tematici online che resteranno aperti fino al 23 ottobre e che serviranno da stimolo alle nuove normative europee. In ciascun forum sarà possibile comunicare nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea grazie a moderatori che cureranno le varie edizioni nazionali. Per ogni sessione tematica ci sarà un dibattito online, dove le idee presentate saranno dibattute dai funzionari europei e da altri cittadini. Alla fine dei dibattiti si produrranno dei rapporti al quale i funzionari faranno riferimento in fase di elaborazione delle nuove proposte legislative. Per saperne di più e partecipare al dibattito, youridealsforeurope.eu. L'altra Europa. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Musica dallo spazio. Questo è un brano il cui videoclip è stato proprio registrato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Parliamo di spazio perché lo spazio è atterrato a Roma con l'European Space Expo. 13 città europee hanno accolto questa esposizione ideata dalla Commissione Europea per dimostrare come lo spazio e i suoi strumenti possono offrire concreti benefici ai cittadini, in particolare ai cittadini europei. È stata inaugurata ieri, il 30 agosto, rimarrà aperta fino al 6 settembre in Piazza del Popolo. Il vicepresidente della Commissione Europea, Tajani, ha detto: gli investimenti dell'Unione Europea sono fondamentali per fornire servizi essenziali per la nostra vita moderna e questa esposizione rappresenta una grande opportunità per i cittadini e per gli ospiti stranieri per farsi un'idea dell'ampia gamma di applicazioni disponibili grazie ai programmi dell'Unione per la navigazione satellitare di osservazione della Terra. Per capire concretamente cosa si può vedere in questa Expo, abbiamo con noi Mauro Facchini, capo Unità Copernicus della Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione Europea. Buon sabato Facchini, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a lei. Allora, si può toccare lo spazio con mano in questa esposizione che è appena sbarcata a Roma? Vorrei dire che è un'opportunità unica per vedere quello che possiamo fare con le capacità spaziali, nel senso che lo spazio non è solo per lo spazio, ma lo spazio è anche per noi cittadini sulla Terra. Mm-hmm. E quindi veramente quanto la nostra quotidianità sia anche legata a quello che succede lassù. In particolare sono i due i programmi coinvolti, i programmi più importanti dell'Unione Europea, che sono il Galileo e il Copernicus. Ce li vuole presentare in sintesi? Assolutamente. L'Unione Europea ha deciso di investire in questi programmi in quanto sono delle applicazioni che permettono di dare dei benefici e dei contributi a varie politiche dell'Unione Europea. Si tratta del programma Galileo, un programma di navigazione satellitare. Per spiegarlo in parole semplici, sarà il GPS europeo, quindi la possibilità di avere delle informazioni di posizionamento attraverso dei satelliti, attraverso una costellazione di satelliti. Il Copernicus invece è un programma di osservazione della Terra, ossia attraverso una costellazione di satelliti che osservano il nostro pianeta, sarà possibile osservare la superficie terrestre, la superficie dei mari, la composizione dell'aria. per avere delle mappature, per avere delle simulazioni che possono essere utili in vari ambiti, nella gestione territoriale, nel caso di crisi, come possono essere dei terremoti, degli tsunami, oppure per verificare quelli che sono gli impatti del cambiamento climatico. Questo veramente in sintesi, e direi che visitando l'Expo si potranno avere molti più dettagli e molti più esempi parlanti di queste capacità. E certo, perché è un'esposizione dove appunto la divulgazione scientifica è messa al centro, quindi si ha veramente la possibilità di toccare, sperimentare, vedere e capire. Stiamo parlando anche di investimenti di milioni di euro, vuol dire anche opportunità di lavoro, vuol dire eccellenze europee impiegate in questi progetti. Anche questo non è sicuramente un lato secondario del vostro lavoro. Assolutamente, come ha detto, io mi occupo di Copernicus e vengo da una direzione generale che è la direzione generale impresa, quindi questo testimonia già l'importanza che per noi queste attività hanno nell'ambito delle imprese. Gli investimenti, più che nell'ordine dei milioni, sono stati nell'ordine dei miliardi di euro, perché quando si parla di applicazioni spaziali si parla comunque di attività costose, però il ritorno di investimento è stimato intorno a 10 volte gli investimenti. Quindi sì, da una parte abbiamo gli investimenti, però ci sarà anche la creazione di posti di lavoro, perché parliamo di attività che al momento attuale non esistono in vari settori, ma che potranno creare delle opportunità sia per la costruzione di capacità spaziali, come possono essere i satelliti, sia per quelli che noi chiamiamo i servizi a valle, che utilizzano questi dati satellitari per produrre dei prodotti che possono essere adatti a varie comunità di utilizzatori, che possono andare dagli agricoltori, dalle amministrazioni nazionali o alle entità marittime, alle protezioni civili e via dicendo. Scopri quanto spazio c'è nella tua vita, questo è lo slogan scelto dalla Commissione Europea per presentare l'European Space Expo. Ricordiamo, a Roma fino al 6 settembre in Piazza del Popolo, orario d'apertura dalle 10 alle 21, l'ingresso è libero, e ec.europa.eu è il sito per tutte le informazioni. Grazie Facchini e buon lavoro, in bocca al lupo per la vostra attività. Grazie a tutti a partecipare. Grazie davvero, ci saremo. Buon sabato. Europost-it. Top floor, sali in alto e capisci come funziona la Banca Centrale Europea. Avete tra i 18 e i 25 anni? E avete voglia di giocare e imparare qualcosa su come funziona la moneta unica? Come è organizzata la Banca Centrale Europea e quali sono i compiti delle banche centrali? Perché non andate sul sito della BCE e giocate a Top Floor, sali in alto, il nuovo quiz interattivo per spiegare ai ragazzi come funzionano queste istituzioni. Nel gioco dovrete farvi strada tra gli ascensori della nuova sede della Banca Centrale Europea, portare i documenti richiesti e intanto imparare di cosa si occupa la BCE e il Sistema Europeo delle Banche Centrali rispondendo ad una serie di domande del quiz. Se siete interessati, il nuovo gioco è stato prodotto in 22 lingue ufficiali dell'Unione ed è disponibile nella sezione Materiale didattico e informativo del sito internet della BCE. ecb.europa.eu/ecb/educational. Questo modello di convenzione OCSE del 2009 non sembra sufficiente. Perché non sembra sufficiente ai fini, diciamo, di un'efficace azione antiriciclaggio? Perché comunque subordina a valutazioni caso per caso la scelta dello Stato se fornire o non fornire le informazioni, cioè se far cadere o no il segreto bancario. Secondo le opinioni più diffuse, e che ora si stanno facendo strada anche a livello europeo, dovrebbe venire meno proprio il principio del segreto bancario. Quelle che state ascoltando ora sono le parole del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti in un estratto del documentario Stop Blanchet, un documentario in cui si parla di riciclaggio, si parla di infiltrazione criminale nell'economia e soprattutto nel rapporto tra Italia e Spagna. Stop Blanchet è anche il titolo della giornata dedicata dal premio Ilaria Alpi quest'anno proprio all'infiltrazione criminale nell'economia attraverso usura e riciclaggio, da Rimini verso l'Europa. Venerdì 6 settembre dalle 10 alle 17:30 interverranno tantissime persone, tra le quali Sonia Alfano, presidente della Commissione Antimafia Europea, Gian Gaetano Bellavia, commercialista esperto di riciclaggio, Salvatore Caronna, deputato del Parlamento europeo, e tra di loro anche Michela Monte, giornalista freelance che ha curato questo documentario. L'iniziativa è contemplata all'interno del progetto europeo di PAFEC, che fa parte del programma generale ISEC, che l'associazione Ilaria Alpi ha contribuito ad ideare con la provincia di Rimini. Michela Monte, giornalista appunto e membro dell'associazione Ilaria Alpi, è qua con noi. Ciao Michela, benvenuta all'Altra Europa. Grazie, un saluto a tutti. Un saluto a te, una giornata importante perché tanti ospiti, si andrà appunto ad affrontare a 360 gradi quello che è il problema dell'infiltrazione criminale nell'economia. Tu in particolare hai curato, so che lo stai ancora montando, sono gli ultimi frame probabilmente che stai sistemando, il documentario. Cosa racconti? Cosa hai trovato? Diciamo che sono una serie di inchieste che fotografano alcune realtà in cui l'elemento del riciclaggio è legato all'infiltrazione economica delle mafie. Questo significa che il denaro sporco diventa pulito, viene reinvestito nell'economia legale e diventa anche un'attività professionale, un luogo di vacanza, un contesto in cui non ci si sognerebbe mai di trovarsi nel risultato di un'operazione di narcotraffico transnazionale, ad esempio. Quindi chiedersi oggi da dove vengono i soldi all'interno del dibattito europeo sulla caduta del segreto bancario in quelli che sono i paradisi fiscali europei è quanto mai opportuno, perché abbiamo visto come negli anni non chiedersi mai da dove vengano i soldi, soprattutto se in contanti, ha portato ad una certa leggerezza nell'affrontare anche quelli che sono poi la cristallizzazione di quei soldi, cioè attività professionali che creano anche degli indotti che poi rappresentano l'effettivo potere economico delle mafie e l'importanza che cominciano ad assumere una volta riciclato il denaro, una volta ripulito il denaro nelle società, perché possono essere reinvestiti nei mezzi di comunicazione, perché possono essere reinvestiti negli hotel dove facciamo le nostre vacanze e quelle non sono imprese come le altre, sono imprese che lavorano sotto costo e sono imprese che inquinano il mercato, non permettendo più alle imprese che sono legate, che lavorano con denaro pulito, che pagano i lavoratori, che pagano le tasse, ecco, quegli standard le imprese legali non se li possono permettere. Questo significa che il mercato si chiude. In un momento di crisi è importante chiedersi chi resta sul mercato e perché. Tu hai fatto una fotografia, tu hai seguito questi flussi, la giornata immagino che abbia tra i suoi obiettivi anche quello di cercare possibili soluzioni. Esistono possibili soluzioni? Tu le hai intraviste? Questa introduzione di Franco Roberti è ad esempio uno dei punti di partenza, cioè chiedersi oggi il sistema bancario che ruolo abbia all'interno del processo di riciclaggio è importante, non tanto perché il sistema bancario sia connivente, ma quanto perché le scappatoie dei paradisi fiscali rappresentano quella che è un'autostrada per il riciclaggio, e quindi sapere effettivamente con che regole operano le banche e soprattutto che ruolo hanno i paradisi fiscali anche europei come Austria oppure Svizzera o quelli che adesso tendono all'apertura, cioè fanno cadere il segreto bancario, come diceva il procuratore in alcuni casi, e quindi stiamo parlando di San Marino che si apre al cammino della trasparenza, oppure stiamo parlando di Andorra, oppure insomma i piccoli paradisi che sono dei paesi terzi fuori dall'Europa e quelli più importanti che sono all'interno della comunità europea sono sotto la lente di ingrandimento della Commissione europea in questo momento, perché è in atto un dibattito ma anche una trattativa per avere i conti che sono, per avere la tracciabilità di questi conti, per sapere di chi sono quei soldi e che provenienza hanno, che oltre alla lotta all'evasione fiscale rappresentano in realtà un grimaldello importante per capire quanta della nostra economia è in realtà contaminata da questo genere di capitali e come effettivamente si può riuscire a bloccare questo flusso, perché se i soldi in narcotraffico sono così tanti che l'economia legale può risultare totalmente invasa, quindi assolutamente. Forse può darsi che chiedersi da dove arrivano, è assolutamente utile. Grazie davvero a Michela. Ricordiamo il premio Ilaria Alpi dal 5 al 7 settembre, la 19ª edizione del premio giornalistico. Tutto il programma lo potete trovare all'indirizzo premioilariaalpi.it. La giornata dedicata all'infiltrazione criminale nell'economia è quella di venerdì 6 settembre. Ciao Michela, grazie, complimenti, grazie per il lavoro, in bocca al lupo, ciao! In bocca al lupo a tutti, ciao! L'altra Europa. Ma is a sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa. Vi ricordo, ci trovate su internet, radio24.it, oppure le nostre pagine ufficiali, sia su Facebook che su Twitter. Lì trovate anche tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ora parliamo di soldi, perché l'Europa è anche questa importante opportunità. E lo facciamo parlando di fondi europei. Partiamo da una recente indagine del nostro quotidiano, del Sole 24 Ore, che ha evidenziato che la provincia autonoma di Trento è al vertice in Italia per il periodo 2007-2013 nell'utilizzo dei fondi strutturali gestiti direttamente dalle regioni, dalle province autonome, risorse che sono state impegnate quasi interamente, il 100% per quello che riguarda i fondi sociali europei e il 95% per quello che riguarda i fondi europei di sviluppo regionale. E sicuramente una provincia virtuosa, sicuramente quando c'è qualcosa di virtuoso è qualcosa che può essere anche imitato, e quindi possono essere dati spunti interessanti per altre province o per altri operatori. Proprio per questo abbiamo voluto approfondire l'argomento. Lo facciamo con Nicoletta Clauser, dirigente del Servizio Europa della Provincia Autonoma di Trento, che è l'autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo, del Fondo di Sviluppo Regionale. Buongiorno Nicoletta, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a voi. Allora, appunto, stiamo parlando di questa esperienza virtuosa, però appunto in quanto virtuosa può dare interessante dritte anche a colleghi ad altre province, ad altre regioni. Come fate a spendere? Qual è la caratteristica, qual è la vostra scelta che vi ha portato a essere tra le province che meglio e che più hanno utilizzato questi fondi? Intanto volevo anche precisare che nello stesso tempo, come siamo magari anche i più virtuosi, siamo anche i più piccolini insieme alla Valle d'Aosta e a Bolzano, nel senso che il nostro ammontare talvolta fa un po' sorridere ad altre regioni che magari viaggiano con 3 zeri in più. Ma nonostante questo io suggerirei, come stanno facendo anche gli altri penso, partendo da una buona programmazione e da subito, quindi avviare la fase di predisposizione bandi per poi cogliere le iniziative e che spendano e noi possiamo quindi certificare, questo è un po' quello che ci ha contraddistinto fin dall'inizio. Certo, tra l'altro una forte collaborazione anche con altre regioni proprio per mettere in rete quelle che sono le buone pratiche. Sì, questo è un po' ci contraddistingue da un punto di vista di fondi, partecipiamo a diverse iniziative, prima fra tutte addirittura siamo riusciti a, come Trento proprio, a essere capofila segretariato tecnico di una rete, questo nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, che mette in sinergia, organizza degli incontri 2 volte all'anno, niente di più, però ha raccolto 29 realtà che utilizzano questi fondi proprio per scambiarsi dei suggerimenti, dei consigli utili, dei progetti, delle buone prassi, noi le chiamiamo, ecco, affinché si possa certificare e comunque riuscire nell'intento di spendere questi denari. Nicoletta, ci può fare regioni in tutta Europa, chiaro. Sì, certo. Ci può fare qualche esempio di gestione di fondi? A cosa sono stati dedicati principalmente? Ma guardi, i nostri 2 programmi, magari non l'ho detto all'inizio, una delle caratteristiche di Trento, che è stata la prima proprio come provincia, noi siamo paragonati alle regioni, è quello di unire le 2 autorità di gestione sui fondi, quindi io sono, cioè Servizio Europa e Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e anche del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Allora, entrambi hanno delle finalità diverse, anche se complementari. Sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ci siamo dedicati sia a iniziative di ricerca industriale rivolte alle imprese nel campo del risparmio energetico. Per noi è stato il nostro item fin dall'inizio questo, vista anche la presenza di un distretto in questo campo in Trentino. Sì. E qui parliamo di 50 progetti dove abbiamo speso 20 milioni di euro. Poi stessa cosa rivolta alle imprese, proprio piccoli, mentre investimenti molto più piccoli di sostenibilità e di risparmio energetico, però che vede 350 iniziative a fronte dei 50 precedenti, con una spesa molto minore, ma di 27 milioni. Quindi a volte anche questa attenzione a grandi progetti da metterli vicino dei piccoli, perché poi quando è l'ora di raccogliere le somme anche i piccolini ci aiutano. Assolutamente. Ultimamente sì. Nuova imprenditorialità. Perfetto. I soldi li stiamo spendendo per questo fronte qua. Uh-huh. E molte volte abbiamo denunciato che una delle grosse carenze relativamente ai fondi europei è anche quello dell'informazione, è quello della conoscenza. Voi fate anche, o comunque viene proposta un'attività di tutoraggio o di comunicazione puntuale agli enti, alle associazioni, alle organizzazioni sul come funzionano, sì, su come recepire questi fondi? Guardi, quello che noi abbiamo cercato di fare è, se possiamo chiamarlo a volte uno slogan, però noi abbiamo cercato di farlo in tutti i modi, un lavoro di squadra, cioè non è il Servizio Europa ma è la provincia, sì, che utilizza i fondi europei. È chiaro che come provincia, quindi non so, io lavoro con i settori di riferimento, come l'ho detto prima, energia, ricerca, incentivi alle imprese, è come fossero i miei colleghi proprio dello stesso servizio. Lavoriamo a quattro mani e nello stesso tempo tutti i canali di informazione li utilizziamo e quindi loro vanno direttamente con gli utenti. Perfetto. Le faccio l'esempio, sì, come imprenditorialità stiamo lavorando con Trentino Sviluppo, che è un in-house che tratta questo e che mette insieme diversi interventi. Grazie davvero Nicoletta per questa testimonianza. Ricordiamo tra l'altro l'Osservatorio del Sole 24 Ore, osservatorio online sulla gestione dei finanziamenti, è aggiornato con i fondi ancora disponibili, il sito lo conoscete, www.ilsole24ore.com. Grazie Nicoletta, complimenti a lei e a tutto il team del Servizio Europa della provincia di Trento. Buon sabato. Arrivederci, grazie. Europost-it. L'Italia e i Balcani si incontrano a Ostuni. Attraversamenti è un festival dedicato all'incontro tra la cultura italiana e quella balcanica nella musica, nel cinema, nella cucina, nell'arte e nella storia. Il tema attorno al quale queste varie sezioni del festival si articolano è la questione della frontiera e dell'incontro a cavallo dell'Adriatico, della mobilità, del mantenimento dell'identità, ma anche dell'ibridazione con altre culture. Il festival si tiene proprio vicino a questo confine marittimo, ad Ostuni, in provincia di Brindisi, dal 6 all'8 settembre ed ambisce a rappresentare una piattaforma permanente dedicata alla costruzione di progetti e relazioni culturali tra l'Italia, in particolare la regione Puglia, e i paesi balcanici. Tra gli eventi e le mostre da segnalare nel centro storico nella serata finale si terrà un'esibizione di Show Cooking, uno spettacolo live che vedrà protagonisti gli chef stellati del territorio pugliese. Per saperne di più, attraversamentifest.it. Allora, pizza prima per rimettere la sclera, fu attes, non è scacciata. Allora, si è scappato, ma... Quella che state ascoltando è una lingua, è una lezione che abbiamo trovato online di lingua valsera. È una bambina che tenta di imparare questa lingua. Abbiamo scelto questo spezzone per introdurre l'argomento della tutela delle minoranze linguistiche in Europa. L'Europa ha 24 lingue ufficiali, poi però ci sono tantissime lingue minori, lingue che sono però spesso lo spirito, l'identità di una minoranza. E c'è tutta una serie di iniziative per tutelare queste lingue. Vi invito a vedere proprio lo spazio dedicato al multilinguismo nel sito ec.europa.eu. Tra l'altro, da poche settimane è stata lanciata anche una iniziativa dei cittadini, una raccolta di firme per una proposta di legge per una maggior tutela delle lingue minoritarie. È stata lanciata da una ONG chiamata FUEN e fondata a Parigi. Abbiamo preso spunto da questa iniziativa proprio per tornare sul discorso delle minoranze linguistiche in Europa, che è comunque un tema che ci piace, e lo facciamo con Silvia Dal Negro, vice direttrice del Centro di Competenza Lingue della Libera Università di Bolzano. Ha lavorato come ricercatrice e partecipata al sesto programma quadro della ricerca della Commissione Europea per il progetto LINE sul tema del plurilinguismo e dell'immigrazione. Insegna linguistica. Buongiorno Dal Negro, benvenuta all'Altra Europa. Grazie, buongiorno. Esiste un'altra Europa delle lingue, sì. Bene, sono molto contenta di aver sentito del valzer così su Radio 24, una lingua alla quale sono molto affezionata. Che lei ha studiato, vero? Sì, mi occupo anche da tanti anni e sono stata anche recentemente in una comunità valzer la settimana scorsa, quindi mi sono sentita un po' a casa. Dal Negro, che cos'è intanto una minoranza linguistica? Come si può definire? Allora, come tutte le minoranze, è chiaramente un concetto relativo, perché presuppone una maggioranza di riferimento, naturalmente. Possiamo definire una minoranza linguistica tanto un gruppo di persone, quindi possiamo dire una comunità linguistica, quindi parliamo di minoranza linguistica come gruppo di persone, sì. E che si definisce in virtù non di una religione, di un'etnia, ma in virtù di parlare una lingua diversa da quella della maggioranza dello Stato, dell'ente di cui fa parte, per cui poniamo il tedesco i tedescofoni in Italia sono una minoranza linguistica in Italia rispetto all'italiano, mentre in Germania poniamo non lo sono, certo. Quindi è un concetto naturalmente relativo. Mm-hmm. Ma esiste un censimento delle lingue minoritarie in Europa? Sì, allora intanto diciamo all'inizio degli anni 90 è stato formulato questa carta delle lingue regionali e minoritarie d'Europa dal Consiglio d'Europa, che ha fornito il quadro in qualche modo. Si stima per l'Unione Europea, diciamo per i paesi dell'Unione Europea, mi sembra una sessantina di lingue minoritarie, ma è molto difficile dire che cosa è e che cosa non è. Per l'esempio del tedesco è palese. Mm-hmm. Perché vale come minoranza in Italia, però non è a livello europeo, non possiamo definirlo una lingua di minoranza. Certo. Basco, bretone, catalano, cornico, corso, friulano, gaelico, galiziano, ladino, basso tedesco, mannese. Sto leggendo alcune delle lingue minoritarie che sono descritte nel sito della Commissione Europea. Con noi Silvia Dal Negro. Silvia, come vengono tutelate in Europa comunque a grandi linee? Ci sono vari progetti, ci sono tante iniziative, ma c'è un piano organico? C'è veramente la volontà di tutelare queste lingue? Allora, la volontà di tutela c'è già da tanto, appunto almeno dagli anni 90, ma anche già dalla Seconda Guerra Mondiale, per, come dire, rifarsi dai crimini anche dei nazionalismi precedenti. Quindi sono tutte però diciamo diritti in negativo, cioè non si devono discriminare i parlanti di lingue di minoranza, eccetera. Tutto questo è segnato anche nella Costituzione Europea, no? Sui diritti positivi è un po' più difficile, nel senso che ci sono una serie di chiamiamole di linee guida che propone l'Unione Europea, in particolare la Commissione Europea, e però poi sta molto ai diversi stati e in particolare alle regioni applicarle, attuarle e rifarsi. Mm-hmm. Diciamo che il sito della Commissione Europea che citava prima è un ottimo portale, perché mette in rete le minoranze, no? Che tipicamente sono delle isole, quindi proprio per definizione sono isolate. Invece uno degli scopi della Commissione Europea, di questi progetti, è proprio quello di mettere insieme, ci sono progetti di scuole in rete, piccole scuole in rete, progetti di costruire ad esempio dei software per poter standardizzare queste lingue, per poterle codificare, perché questo è un altro dei problemi delle lingue di minoranza, certo. La standardizzazione naturalmente. Mm-hmm. Lenta. Poi ci sono, non lo prego, poi ci sono? Ci sono anche progetti ad esempio non focalizzati sulle lingue, come l'Interreg, che forse conoscete nel vostro programma, che servono proprio per mettere in comunicazione i paesi confinanti, non so, l'Italia, la Slovenia, l'Italia, l'Austria, la Francia, la Germania, eccetera, proprio per favorire anche, sono progetti mirati anche alle lingue di minoranza, che sono spesso lingue transfrontaliere, che quindi proprio costituiscono la cerniera dell'Europa, no? Se pensiamo al tedesco, allo sloveno, all'ungherese, al greco, certo, tutte le zone di confine dell'Europa in realtà hanno delle minoranze che sono transfrontaliere. E questi progetti Interreg, ad esempio, secondo me sono ottimi. Sì, perché diventano ponte, ma diventano anche porta per nuove integrazioni. Sì, la minoranza è un'isola, ma al tempo stesso è un ponte, in realtà. Certo. E lei in Italia di cosa si occupa? Io come ricerca mi occupo proprio di situazioni di contatto linguistico, proprio quei punti di cerniera in cui due lingue si incontrano e si influenzano a vicenda. Quindi ho lavorato molto in queste piccole isole linguistiche che sono dei laboratori di plurilinguismo in realtà, e adesso che sono a Bolzano di più sul contatto, diciamo, tedesco, italiano, ladino, certo. Situazioni di questo tipo. Lì è assolutamente la quotidianità. Unibz.it è il sito dell'università, della Libera Università di Bolzano, oppure ec.europa.eu per è il sito che abbiamo citato più volte, appunto, della Commissione Europea. E grazie davvero Dal Negro per questa fotografia, per questa istantanea sulle lingue minoritarie europee. Buon lavoro e buon sabato. Grazie a voi, arrivederci. Siamo a Valarsa, in provincia di Trento. Quella di oggi sarà la giornata clou del festival Tra le rocce e il cielo, il festival della montagna interamente dedicato alle minoranze linguistiche. Giornata clou che si concluderà con il concerto dei Lou Dalfin, questo gruppo che ha portato la musica occitana in giro per il mondo, una sorta di reinterpretazione in chiave moderna di una tradizione. Loro non vogliono fare musica tradizionale, musica nostalgica, ma vogliono fare musica popolare utilizzando la lingua occitana. Con noi c'è l'anima, il fondatore del gruppo. Diamo il benvenuto a Sergio Berardo. Ciao Sergio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Come mai la scelta della lingua occitana? Guarda, se una persona si trova ad avere a propria disposizione uno strumento come la lingua che fu dei trovatori, io non giudico, non dico che fa bene o fa male a non usarla, in ogni caso spreca qualcosa se non la utilizza. Quando ho deciso di cantare, quando ho deciso di suonare, mi sono reso conto che c'era una miniera di sapere, di cultura qui nella mia terra, e quindi mi ci sono buttato dentro. Con questa idea di reinterpretarla in chiave moderna? Sì, ma diciamo che è obbligatorio fare questo. Qualcuno diceva che una tradizione è veramente morta quando la si difende invece di inventarla. Una tradizione deve essere continuamente inventata. C'è questa idea per cui se una persona vive in una zona così di minoranza etnica, in montagna, se si presenti come, non lo so, una nonna papera della cultura e arrivi portando quella cuffietta, un'età dell'oro che forse non è mai esistita. Noi cerchiamo di vivere la nostra cultura nel presente e con gli occhi ben aperti sulla memoria. Non so, io faccio musica con gli strumenti della tradizione occitana, quindi ghironda, cornamuse, fisarmonica, flauti e compagnia, e li conosco, li ho studiati, ci lavoro e li insegno, però non li tengo chiusi nel ghetto dell'archeologia, nel ghetto dell'ossessione del ricalco stilistico del passato, ecco. Tradizione deve essere reinvenzione, secondo me. Ma la ghironda dove l'hai ritrovata? Non si era estinto come strumento? Allora, la Gironda no, è rimasta nell'area occitana, perché quando parliamo di Occitania parliamo di una realtà molto molto vasta, quindi tutto il sud dell'esagono francese. In molte zone era ancora utilizzata, così nella tradizione, diciamo così, folcloristica. Da noi era lo strumento dei suonatori ambulanti, queste persone che lasciavano il paese e affrontavano la strada armate soltanto della loro Gironda. Questi musicisti hanno smesso di operare nel periodo compreso tra le due guerre mondiali. Quando io mi sono interessato a tutto questo, un po' affascinato da questa memoria che era molto presente nei racconti della nostra gente, ho preso un qualcosa che era ancora vivo, diciamo, doveva soltanto essere ricollegato alla pratica, al presente, e ho ripreso le strade di questi suonatori ambulanti. Loro giravano le fiere a piedi, noi giriamo col furgone, un aereo, in macchina come capita, e andiamo ai feste, andiamo ai concerti, suoniamo nelle situazioni più disparate, e lo facciamo però nel presente. Tra le rocce e il cielo.it è il sito per conoscere il festival, ludalfine.it è il sito invece del gruppo musicale. Ascoltiamoci un altro pezzo e poi dopo continuiamo questa chiacchierata sulla vostra musica. Il Ludalfine questa sera a Valarsa in provincia di Trento. Sergio, un'ultima domanda: è 30 anni che portate in giro la musica e la lingua occitana. In questi 30 anni è cambiata l'attenzione? C'è una sensibilità maggiore o minore? Diciamo che è cresciuto. Qui da noi la danza tradizionale, la pratica di suonare hanno avuto una crescita esponenziale nel corso di questi 30 anni. Ludalfing è stato un detonatore per qualcosa che poi nelle nostre valli e zone vicine è diventato un fenomeno di costume. In giro per l'Italia o per dove ci capita di andare a suonare, per l'Occitania Transalpina, in giro per l'Europa, c'è un grosso interesse, c'è una voglia, secondo me, di radici, di tradizione, c'è una voglia di suoni che non siano quelli un po' da supermercato che siamo sempre abituati ad ascoltare. Quindi trovo che c'è interesse, che abbiamo ancora ragione di girare come quei musicisti ambulanti di Gironda che citavo prima. Ciao Sergio, grazie, complimenti. Arrivederci, ciao. E chiude qui questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a Margherita Aina, che con me ha scritto il programma, Valeria Bernardi oggi alla parte tecnica. Radio24.it è il nostro sito, oppure ci trovate sui vari social network, Facebook e Twitter in particolare. L'appuntamento con l'Altra Europa, come sempre, a sabato prossimo alle 10. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.